Radio 24 Reportage. Nel 2050, con circa 10 miliardi di uomini sul pianeta, si stima che la richiesta di cibo aumenterà del 60%. Si tratta evidentemente di una sfida sempre più incombente per il mondo nel suo insieme, per l'Unione Europea, unione che si prepara in realtà da anni ad affrontarla. L'Unione Europea infatti ha delineato la propria Food 2030 agenda, quindi un'agenda che è proiettata già sul decennio in cui siamo appena entrati, con l'obiettivo di finanziare alcuni programmi di ricerca innovativi. Il programma Healthy Minor Cereals, quindi i cereali minori per semplificare, studia per esempio 5 tipi di cereali meno coltivati al momento per assicurare varietà di alimenti. Nel 2016 il consigliere scientifico della Commissione europea, il Joint Research Center, ha pubblicato un report su sicurezza del cibo e nutrizione nel 2050 che dipinge diversi scenari. Fare dei pronostici sull'alimentazione del futuro, insomma, non è evidentemente semplice. E allora cominciamo da quello che ci ha raccontato Franz Ulbert, uno degli autori del report. Lo ha intervistato per la nostra rete europea di Euronet Plus, Sophie Petitjean. Sentiamolo. È molto difficile dire come sarà il cibo del futuro. Possiamo fare qualche stima sulla direzione che prenderà l'industria alimentare per fronteggiare i cambiamenti climatici, tenendo anche conto della scarsità di risorse e con la grande sfida che ci aspetta in futuro, che è quella di nutrire 10 miliardi di persone. Per questo motivo abbiamo certamente bisogno di innovazione, il che non significa esclusivamente cibo nuovo. Dobbiamo essere intelligenti nel mettere a punto un sistema alimentare flessibile e sostenibile. Per il JRC in particolare ci sono diversi scenari che si aprono per il futuro. Secondo uno di questi, il commercio e le moderne tecnologie alimentari potrebbero rappresentare da sole la risposta alla scarsità di risorse. Un altro scenario invece porterebbe al consumo di cibo locale e stagionale. E poi si pensa alla nuovissima frontiera, cioè esplorare per l'alimentazione quello che almeno noi in Europa non abbiamo mai esplorato. E allora parliamo per esempio di carne coltivata, esattamente coltivata come appunto i cereali. Peter Verstraete, consulente olandese, scienziato alimentare, propone per esempio una soluzione di coltivazione della carne dalle cellule. Si tratta di carne realizzata sostanzialmente attraverso tecnologie mediche, ingegneria dei tessuti. Per Verstraete un processo di questo tipo sarebbe più salutare, avrebbe benefici per l'ambiente, sarebbe più, dice lui, gentile nei confronti degli animali. Allora cominciamo a sentire Peter Verstraete. Per produrre questa carne non c'è bisogno di uccidere l'animale, bisogna solo prelevare un paio di cellule e introdurle nel nostro sistema. Messo così sembra molto semplice. Di certo Verstraete ci crede tanto da avere creato a Maastricht, quindi uno dei luoghi simboli dell'Europa, la Mosa Meat, un'azienda che compete peraltro con aziende israeliane e americane per sviluppare un prodotto adatto alla consumazione quotidiana. Per Mosa Meat ci sono ancora molte incognite da risolvere, come la riduzione dei costi di produzione. Un'altra sfida consiste nell'identificare un sostituto per il siero dei feti di bovino, un supplemento utilizzato per questa coltivazione di cellule in vitro, dal momento che non soddisfa gli standard di welfare per l'animale ed è in contrasto con l'obiettivo di sostenibilità dell'azienda. Ma allora sentiamo ancora un passaggio. Peter Verstraete. Il processo è ancora alle fasi iniziali, nel senso che possiamo realizzare tessuti muscolari e adiposi in laboratorio, ma in piccole quantità. Dobbiamo ancora migliorare un po', ma principalmente dobbiamo lavorare per incrementare il processo e produrre carne in quantità industriale in futuro. E questo richiederà 3 o 4 anni. Three, four years. 3 o forse 4 anni, chissà, magari Verstrate è un po' ottimista, ma naturalmente anche il ruolo di ricercatore e imprenditore che lo spinge in questa direzione. L'azienda infatti dovrà avere anche un appeal presso i consumatori, in pratica dovremmo poi trovarlo piacevole, essere pronti a cambiare o comunque a affrontare questa nuova possibilità, questo nuovo campo. Uno dei più scettici in un certo modo è proprio il commissario europeo uscente per le politiche alimentari, è Vytenis Andriukaitis, che è lituano. Lui ha detto ancora recentemente, insomma, che ha ancora un problema proprio anche psicologico nel passare ad una carne coltivata. E a proposito di problemi psicologici, non so se vi è mai capitata l'esperienza di mangiare degli insetti. Qui a Radio 24 è capitato, perché nei nostri ospiti, appunto i nostri ascoltatori che a volte diventano ospiti, portano anche l'opportunità di provarle. Devo dire, sono tra quelli, ma siamo in parecchi, che quando appunto un produttore di insetti per alimentazione arrivò qui con il suo campionario, assaggiammo i prodotti. Ora, mentirei se vi dicessi, se facessi delle recensioni entusiastiche, però effettivamente poi la spiegazione dei valori nutritivi degli insetti è piuttosto impressionante. Questo perché ci sono 2000 almeno specie di insetti commestibili. Bene, un fronte con un potenziale davvero enorme. Allora, secondo Christophe Derien, che è il segretario generale del International Platform of Insect for Food and Feed Association, insomma la piattaforma internazionale per gli insetti da alimentazione, gli insetti davvero possono costituire un nuovo tipo di alimento di consumo per tutti gli europei. Allora sentiamolo. De l'insecte entier et désidraté que vous pouvez consommer en apéritif. Si va da insetti interi ed idratati da mangiare come un antipasto a barrette proteiche con polvere di insetto. Il valore aggiunto è che gli insetti e i prodotti a base di insetti sono proteine ricche e altamente digeribili. Inoltre hanno un alto contenuto di vitamine e micronutrienti che le rendono molto interessanti per il consumo da parte dell'uomo e di determinate popolazioni. Questo era Christophe Derien. Dunque, ancora una volta siamo di fronte a una persona che è molto implicata in questa frontiera. Lo ricordiamo, è comunque un numero impressionante, 2000 insetti commestibili. Sappiamo anche peraltro che ci sono intere popolazioni umane che, a differenza di quanto facciamo noi, consumano insetti in maniera sistematica e direi stanno benone. Ma per cercare di localizzare anche nella nostra cultura i nostri gusti, questo e più in generale la questione dell'alimentazione, abbiamo invitato Giuseppe Remuzzi, che è un medico italiano, dal 2018 è direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è un medico dunque, e recentemente Remuzzi è anche diventato anche vice direttore di una nuova struttura, una struttura che si chiama Italian Institute for Planetary Health, quindi l'Istituto Italiano per il Benessere del Pianeta. Sentiremo meglio cos'è più avanti, ma subito vi faccio sentire la risposta alla domanda insetti. Dottor Remuzzi, che ne pensa? Gli insetti sicuramente, il problema degli insetti, gli insetti saranno probabilmente l'alimentazione del futuro e quindi dobbiamo prepararci a questo, e qui ricadiamo nell'importanza di avere della gente che studi le proprietà organolettiche e la capacità di questi insetti di essere graditi dal punto di vista di tradizioni alimentari che sono non esattamente quelle di chi normalmente mangia gli insetti, e quindi lì si tratta veramente di fare molto lavoro per cercare di capire fino a che punto questo potrà essere a disposizione della maggior parte delle persone che ne hanno bisogno. Insomma, è tutto un enorme progetto di ricerca. La carne coltivata in laboratorio sarebbe una buona idea, bisognerà vedere se ci si riesce, bisognerà vedere quanto costa farlo, bisognerà vedere se le proprietà di gusto sono paragonabili alla carne che noi mangiamo di solito, quindi questa è una cosa importante verso la quale bisogna andare con un forte approccio di ricerca. C'è molto da studiare prima di poter immaginare, però certo potrebbe essere una strada percorribile, perché molto dell'inquinamento dell'atmosfera dipende dai grossi animali, soprattutto dai bovini. Insomma, direi che Giuseppe Remuzzi, che è uno scienziato solidamente basato nella Bergamasca, anche culturalmente, quindi l'avete sentito, è molto chiaro, cioè gli insetti non ci sono dubbi, si tratta appunto di sviluppare e trasformare il potenziale enorme. Sulla carne ci sono interrogativi di varia natura. Tra poco continuiamo il nostro viaggio di questa giornata sull'alimentazione, ricordando un aspetto che proprio il dottor Remuzzi ha condiviso con noi, cioè il fatto che oggi si muore più di cattiva alimentazione che di droga, fumo, alcol e rapporti sessuali a rischio messi insieme. Siamo 7 miliardi sulla Terra, dovremmo essere 10 o poco meno appunto nel 2050, compresi oggi 3 miliardi di persone che non si nutrono adeguatamente. Attenzione, in questo c'è naturalmente chi non riesce ad avere abbastanza cibo, c'è anche chi ne ha troppo. Torniamo tra un momento, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio. Radio 24 Reportage. Ben ritrovati da Gigi Donnelli al microfono, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza, da Andrea Roccabella in regia. Abbiamo detto dunque una nuova organizzazione che è la Italian Institute for Planetary Health, frutto dell'unione tra l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la partecipazione di Vitali, che è uno spin-off dell'Ateneo. Vicepresidente il dottor Giuseppe Remuzzi, e da questo assunto che abbiamo sentito appunto alla fine della prima parte ripartiamo, cioè dal fatto che davvero oggi si muore più di cattiva alimentazione che di droga, fumo, alcol, rapporti sessuali a rischio messi insieme. Lo abbiamo chiesto di spiegarci davvero la portata di questa affermazione al dottor Remuzzi. Innanzitutto significa che la cura delle malattie può passare attraverso una buona alimentazione. Non abbiamo abbastanza conoscenze per sapere qual è la buona alimentazione che è capace di prevenire le malattie, o meglio ce l'abbiamo solo in parte. Per esempio abbiamo un'informazione importante che ormai è stata acquisita in tutti questi anni, che la dieta mediterranea, che è sostanzialmente una dieta con poca carne, soprattutto con poca carne rossa, basata largamente su frutta e verdura e con un alto contenuto di grassi in forma di olio d'oliva, previene le malattie coronariche, il cancro e riduce la mortalità totale. E poi abbiamo però anche altre informazioni, perché noi non possiamo immaginare che la dieta mediterranea si possa applicare a tutte le popolazioni della Terra. Allora l'obiettivo di Italian Institute of Planetary Health è esattamente quello di incominciare a fare un lavoro antropologico, andare a vedere dove sono altre diete nel mondo che sono interessanti per proteggere dalle malattie. Per esempio sappiamo già di quella degli indigeni del Messico precolombiano, che è fatta soprattutto di mais, di molte erbe, di peperoncino, fagioli, zucca, arachidi, eccetera. Poi abbiamo delle diete della Cina, abbiamo delle diete molto importanti di certe popolazioni dell'Africa, abbiamo diete dell'India. In comune queste diete hanno in generale poca carne solo in certe occasioni e per lo più mischiata con fibre, grano, granaglie, verdura, legumi e soprattutto noci. 7 miliardi di persone sono già, siamo già presenti oggi, 3 miliardi di persone si nutrono troppo poco oppure troppo o male. Allora, quali sono le implicazioni del mangiare troppo in particolare, che evidentemente è quello che riguarda la parte più fortunata, la nostra, del pianeta? Sentiamo Giuseppe Remuzzi. Le implicazioni del mangiare troppo oggi sono favorire l'insorgenza di malattie, soprattutto malattie del cuore, ma anche tumori, arteriosclerosi e malattie associate all'invecchiamento e al decadimento cerebrale. Qui per esempio abbiamo un esempio che è molto, molto bello, che riguarda l'Amazzonia. Noi partiremo a studiare proprio certe situazioni dell'Amazzonia, perché lì ci sono delle popolazioni indigene che non hanno la pressione alta, cioè invecchiano senza avere la pressione alta, noi avevamo sempre l'idea che la pressione alta fosse una conseguenza dell'irrigidimento dei vasi arteriosi e quindi fosse una conseguenza dell'età. Invece queste popolazioni ci insegnano che si può arrivare a un'età avanzata senza avere la pressione alta. Quello che succede è che lì ci sono delle piante della famiglia delle palme che crescono soltanto lì e queste sono frutti che hanno la più alta concentrazione di antiossidanti al mondo. E ci sono degli studi, per adesso sono ancora degli studi preliminari, però noi queste cose vorremmo studiare in modo sistematico, che questi tipi di frutti proteggono il cuore, hanno proprietà anticancro, proteggono il cervello, proteggono la pelle dall'invecchiamento e addirittura migliorano la funzione del tratto gastrointestinale. Viviamo oggi più che in passato, le donne più che gli uomini, in Europa più che nel resto del mondo, a parte Giappone e altre realtà specifiche. Uno però degli interrogativi è anche la qualità, insomma il modo in cui si invecchia per il fatto in sé, che è sufficiente a meritare l'attenzione, ma anche, diciamolo, per il costo sociale complessivo di un invecchiamento a bassa qualità. Allora, in che modo, abbiamo chiesto al dottor Remuzzi, possiamo migliorare la qualità della vita nell'invecchiamento anche attraverso il cibo? È proprio così, perché noi siamo i più longevi di tutti, e però viviamo male gli ultimi 10 anni della nostra vita. Quindi le donne arrivano a 85 anni, gli uomini come me e lei arrivano a 80, ma gli ultimi 10 anni sono difficili. Quindi noi vogliamo studiare le proprietà dei cibi per utilizzare l'Italia come un laboratorio che parte già da 3 condizioni favorevoli. Il primo, che a Milano c'è stato Expo, e allora noi partiamo da questa sensibilità che il mondo ha avuto nei confronti dell'Italia, che ha ospitato un'esposizione universale dedicata proprio al tema di nutrire il pianeta. Il secondo è quello che ha detto lei adesso, che noi viviamo di più degli altri e quindi partiamo già da una buona condizione. Il terzo, che abbiamo un servizio sanitario nazionale che è per tutti. Un esperimento del genere, trasformando una nazione in un laboratorio, non si potrebbe fare in un posto dove c'è una grande diseguaglianza di accesso alle cure, per esempio, che da noi per fortuna non c'è. Ma la cosa più interessante che noi vogliamo fare è studiare gli alimenti dal punto di vista di quello che loro fanno rispetto alla espressione in senso di aumento di regolazione o diminuzione di regolazione di certi geni che sono protettivi o favorenti i tumori o le malattie cardiovascolari. Quindi vogliamo fare con le sostanze chimiche degli alimenti, approfittando delle competenze che ci sono al Mario Negri e all'Università Cattolica, esattamente quello che è stato fatto con i farmaci antitumorali. Ma poi c'è un'altra cosa importante, vogliamo studiare anche com'è il nostro DNA in rapporto al cibo di cui noi prendiamo vantaggio o svantaggio. Io ho una variante genetica tra le 175.000 che distinguono me da lei, e ciascuno di noi ha varianti genetiche particolari che non mi consentono di prendere vantaggio dall'effetto cardioprotettivo del vino rosso, purché consumato con moderazione. Il vino rosso sembra che faccia bene al cuore, però non a tutti, perché dipende da com'è il tuo DNA. Dipende, insomma, da com'è il DNA di ciascuno di noi. Naturalmente, come dire, si prospetta, alcuni ce l'hanno già una mappatura del DNA, altri no, io non ce l'ho per esempio, sarei curioso, credo anche Andrea Roccabello, che fa una faccia in regia, come dire, esattamente che cosa sarebbe meglio per noi. Possiamo immaginare che progressivamente questo tipo di tecnologia, di accesso tecnologico, sarà più diffuso. In tutto questo però vorrei tornare un momento al discorso della dieta mediterranea, che intanto abbiamo... Come dire, essere nel Mediterraneo non significa fare una dieta mediterranea in senso stretto. E allora ho chiesto al dottor Remuzzi come mai proprio nelle zone del sud, per esempio, dell'Italia, il problema dell'obesità è più diffuso che in altre aree del nostro paese. Perché costa tanto aderire alla dieta mediterranea, la frutta e la verdura costano tanto, è molto più economico, le patatine, le cose salate, le merendine, adesso c'è tutta questa critica per esempio sulla tassa, sullo zucchero e sulle merendine, che è naturalmente strumentale, perché indipendentemente da chi, io non so neanche chi lo dice sul piano politico di partiti, perché adesso è anche difficile seguirli questi partiti, ma 10 anni fa avevo fatto un pezzo sul Corriere che diceva che fra i killer sicuri dell'alimentazione c'è lo zucchero. Tutti sanno il sale, ma pochissimi sanno dello zucchero, e quindi c'è tutto un movimento a livello internazionale per aiutare le persone a non bere bevande zuccherate, perché queste rappresentano un grandissimo problema. Quindi il sud dell'Italia sarebbe il posto in cui è possibile mangiare come da nessun'altra parte, perché pesce azzurro, tutte queste cose, però le persone poi mangiano hamburger e patatine come a New York. Insomma, non basta essere mediterranei come siamo noi per definizione e per fortuna per poter accedere alla qualità della dieta mediterranea. Torniamo a livello europeo. L'Unione Europea ha aggiornato di recente e in maniera piuttosto importante le proprie regole sui nuovi alimenti, cioè il cibo che non era utilizzato per il consumo all'interno dell'Unione prima del 15 maggio 1997. Prima di concedere un'autorizzazione, l'UE valuta se il prodotto è sicuro, come quelli appartenenti a una categoria alimentare comparabile, o se non è inferiore all'esistente da un punto di vista nutrizionale. Insomma, un grosso sistema di controllo complessivamente efficiente, naturalmente non esente da elementi di debolezza e soprattutto da critiche, ma tant'è, dobbiamo ricordarcelo, siamo comunque in un'area del mondo in cui tra sistema sanitario e sistema di controllo, insomma, siamo piuttosto fortunati. Ma volevamo concludere con la voce europea sentendo Camille Perrin, che è il Senior Officer per le politiche alimentari dell'Associazione dei Consumatori Europei, che si dice appunto fiduciosa della robustezza delle nostre regole. Nous pensons que le cadre réglementaire actuel, donc la réglementation sur les nouveaux aliments, est effectivement robuste. Noi pensiamo che il quadro giuridico attuale e di conseguenza la regolamentazione sui nuovi alimenti sia molto buono. L'Unione Europea è l'unica regione al mondo in cui queste innovazioni non possono essere messe sul mercato senza prima essere esaminate. La sicurezza sanitaria ed eventualmente il rischio di indurre in errore i consumatori sono presi in considerazione. In alcuni casi vige l'obbligo di etichetta. Quindi pensiamo che le regole siano buone, ma ora dobbiamo applicarle in modo completo e corretto. Maintenant il faut les mettre en œuvre de manière correcte et complète. Un'ultima battuta invece in conclusione con il dottor Remuzzi. Vi ho parlato di questa nuova iniziativa, appunto, di cui Remuzzi è vice direttore, un progetto che vi ho parlato di medico ma anche culturale, antropologico, perché è di ricerca, e immaginiamo inevitabilmente un progetto che ha tempi lunghi. Sentiamo. Beh, dobbiamo cominciare, i tempi sono lunghi sempre, i tempi della ricerca. Perché se lei pensa da quanti anni pensiamo che ripareremo gli organi con le cellule staminali, in realtà siamo ancora molto lontani. Chiarissimo. Però bisogna cominciare. Assolutamente. E quindi noi abbiamo un grande entusiasmo per avere già cominciato di fatto. Un'ultima domanda riguarda il ruolo dell'Europa, in particolare la Food Safety and Security, l'agenzia dell'Unione Europea sul cibo, che è a Parma dal 2002. Che rapporto avrete con loro? Beh, dovremmo avere un rapporto molto stretto, perché loro si occupano soprattutto di sicurezza alimentare. Noi ci occupiamo di un problema che è complementare, quello di trovare il modo di alimentare nazioni e possibilmente il mondo attraverso delle conoscenze scientifiche che supportino l'uso di certi alimenti verso altri. Però poi bisognerà essere certi che questi alimenti siano sicuri, e quindi l'integrazione con l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare è fondamentale, è una cosa che noi abbiamo in programma di fare, sarà la prima nell'agenda delle priorità del nuovo Consiglio di Amministrazione, e questo comunque giustifica il fatto di trasformare proprio l'Italia e non la Gran Bretagna o la Germania in un laboratorio per il mondo. Grazie davvero a Giuseppe Remuzzi, lo ricordo, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri e vice direttore da pochi giorni dell'Italian Institute for Planetary Health, questa organizzazione che inizia un grande progetto utilizzando di fatto tutti noi, tutta l'Italia, come grande terreno di esplorazione. Allora, da Gigi Donelli è tutto per questo appuntamento, un saluto anche da Alessandro Alessandro Schirano, da Andrea Roccabella in regia. Adesso, come sempre, vi lascio agli aggiornamenti di Radio 24 con le notizie e naturalmente tutti gli altri programmi. Un caro saluto a tutti voi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.